Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata, questa sì, di Focus Economia della settimana. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche della borsa, nel senso che al di là dell'andamento di borsa che adesso vi racconterò, è uscito il mensile, la mensile indagine di Radio Corriere Sole 24 Ore sulle attese degli operatori di borsa, chi vi lavora tutti i giorni, e devo dire che rispetto alle altre indagini dei mesi scorsi c'è un raffreddamento netto, poi ne parleremo fra pochi minuti, delle attese di tutti gli operatori sull'andamento della borsa nei prossimi mesi. Questo per quello che riguarda i mercati, ma è ovvio che parleremo oggi anche di Alitalia. Già il nostro GR24 vi dava alcune anticipazioni. Ci sono vari aspetti, vari fronti, tra cui quello che ha fatto più notizia questa mattina è il fronte sindacale. Nel senso che il referendum organizzato, indetto dai sindacati, non ha raggiunto il quorum, quindi il minimo previsto di votanti. Perché? Perché hanno votato 3.500 lavoratori su 13.200. E era un referendum sui tagli al costo del lavoro in Alitalia, i 31 milioni di euro di riduzione da qui a fine anno. La UILT, che non aveva firmato l'accordo, dice che l'accordo non è valido, ma CGIL, CISL e UILT dicono che l'accordo è valido. In realtà l'azienda ha poi confermato che sulla base del testo unico sulla rappresentanza e democrazia sindacale il mancato raggiungimento del quorum conferma la validità degli accordi sottoposti al referendum, ossia se non si raggiunge il numero sufficiente di votanti valgono gli accordi presi, perché il referendum era abrogativo, era per votare il no agli accordi presi. Mi sembra oggettivamente che abbia anche un senso logico, e quindi viene ribadita l'efficacia degli accordi del 16 e 17 luglio. Ancora, Air France KLM non parteciperà all'aumento di capitale, ma oggi era anche la giornata dell'assemblea degli azionisti di Alitalia. E allora, ha votato l'ok al bilancio ma non ha comunicato i risultati. Da quello che si capisce, la perdita netta dell'Italia nel 2013 starebbe intorno ai 570 milioni di euro, il che vuol dire sostanzialmente 1,5 milioni di euro al giorno di perdita netta. Lo dico col massimo rispetto per tutte le posizioni che abbiamo raccontato in queste settimane e mesi di trattativa con la compagnia aerea Etihad di Abu Dhabi, perché tutti quelli che ritengono l'accordo non corretto, non sono favorevoli all'accordo, dovrebbero però spiegare che come si salva una compagnia come Alitalia, che sta perdendo, o meglio ha perso nel 2013, 1,5 milioni di euro ogni giorno. Ieri qualcuno diceva: ma perché dice che poi ricadrebbe sui cittadini? Alitalia è privata. Allora, intanto, quando fu fatta l'operazione CAI, ricordo a tutti che la bad company, cioè la parte di Alitalia ritenuta non profittevole, ce la siamo caricata noi come contribuenti. In secondo luogo, è ovvio che a un certo momento, se anche dovesse esserci una vera crisi aziendale dell'Italia, il rischio che poi questa venga scaricata sulla collettività è altissimo. E allora, anche perché non possiamo immaginare di sospendere improvvisamente le rotte e i voli che servono al paese e che servono anche a chi vuole arrivare in Italia. E allora è inutile girarci attorno. Se non si ha un'ipotesi alternativa, l'unica ipotesi in questo momento, l'unica offerta in questo momento sul tappeto è quella di Etihad, i 560 milioni di euro che Etihad mette per avere il 49% di Alitalia. Smentita invece dai vertici di Alitalia e anche da Etihad l'ipotesi circolata oggi su alcuni giornali che il numero uno di Etihad, Hogan, James Hogan, avesse detto che lunedì era l'ultima data possibile, cioè o si firma o si raggiungeva il via libera definitivo o saltava l'accordo. Smentito questo quest'ultimatum dallo stesso Gabriele del Torchio, che è il numero uno di Alitalia, ma anche Etihad ha smentito che sia stato chiesto dall'Italia di chiudere l'accordo entro il 28 luglio. E questo è un altro fronte. Ancora, per quello che riguarda invece le notizie di oggi, anche qui il GR24 ve l'ha appena ricordato, il gruppo britannico BSkyB ha annunciato, quindi Sky, di aver raggiunto un accordo con la 21st Century Fox per acquistare le azioni di Sky Italia e Sky Deutschland, di cui era proprietaria. Praticamente è un derby tutto interno a casa Murdoch, perché il magnate australiano è a capo del 39% della pay TV inglese e di 21st Century Fox, che controlla a sua volta il 100% di Sky Italia e quasi il 58% di Sky Deutschland. Sky B pagherà 2 miliardi e mezzo di sterline, circa 3 miliardi di euro, per avere il 100% di Sky Italia e altri 3 miliardi e 7 per il 58%, 57% e mezzo di Sky Deutschland. E oltre a questi 6 miliardi e 700 milioni di euro totali, Sky B promuoverà anche un'offerta per gli azionisti di minoranza di Sky Deutschland, che porterebbe l'intera operazione, se i piccoli azionisti daranno le loro azioni, a quasi 8 miliardi e 850 milioni di euro. Ora, uno potrebbe dire, ma come mai tutta questa operazione all'interno di Sky? Beh, ne parleremo nel corso del programma. Le conseguenze potrebbero riversarsi direttamente anche sulla tentata operazione che Murdoch ha fatto su Fox Time, però ci sarà sostanzialmente quello che sta nascendo, una super pay TV di carattere europeo con 20 milioni di clienti. Nel giorno in cui Sky ha comunicato anche i dati sull'esercizio a fine giugno 2014, perdite per 8 milioni di euro, mentre l'anno prima c'era una perdita di 38 milioni di euro, stabili gli abbonati a 4 milioni e 725 mila persone. Ma dicevo, questa operazione porterà alla creazione di un'unica super pay TV da 20 milioni di clienti, 14 milioni di ricavi e praticamente potrà raggiungere, si calcola, 97 milioni di abitazioni. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la borsa, dicevamo, oggi Piazza Affari cede, ma meno delle altre borse europee, lo 0,90%, Parigi l'1,80%, Francoforte l'1,5%, Londra meno 0,5%, l'America perde lo 0,90%, va bene Luxottica da noi più 2%, A2A più 1,60%, Telecom Italia più 1,40%, bene anche Prismian più 0,80%, Mediobanca più 0,50% come Finmeccanica. Male le banche, Pop Emilia Romagna meno 3,25, Banco Popolare meno 2,20, Pop Milano meno 1,80, male anche Mediaset meno 3,35, Atlantia meno 2,60, debole oggi il lusso con Ferragamo che perde il 2,30%, Tod's l'1,1%. Segnalo anche la flessione di Autogrill meno 1,70% e di Buzzi Unicem sempre l'1,70% di calo. L'economia internazionale, come sempre. Allora, oggi, ieri in serata Amazon ha diffuso i dati sul secondo trimestre e cresce il rosso a 126 milioni di dollari. Un dato per Amazon peggiore di ogni attesa degli analisti, tant'è che in borsa il titolo è iniziato a calare, è arrivato a perdere il 10%. Vodafone invece ha chiuso i primi trimestri dell'anno con ricavi in calo del 4,5% a 10 miliardi di sterline. In Italia si è arrestata l'emorragia dei ricavi e quindi 1 miliardo e 300 milioni in calo rispetto a un anno fa, ma il calo si è arrestato, meno 16%, dicevo, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La Banca Centrale Europea nel frattempo fa sapere che continua a rallentare la discesa dei prestiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che le banche continuano a prestare meno, ma si riduce, diciamo, la contrazione di questi prestiti, per cui non è una buona notizia parzialmente, perché la vera buona notizia sarebbe che le banche sono tornate a aumentare i loro prestiti, non a ridurre il calo. Comunque meno 1,1% a giugno contro il meno 1,6% di aprile. Faccio però notare che è il 26esimo mese consecutivo che i dati diffusi dalla Banca Centrale Europea segnano una riduzione dei prestiti da parte delle banche europee. 26esimo mese consecutivo vuol dire che siamo a oltre due anni di cali continui. Che poi questi cali siano meno intensi di un anno fa va bene, ma insomma il bicchiere è ancora ampiamente mezzo vuoto. Bene invece i dati che arrivano dalla Gran Bretagna, l'economia è cresciuta nel secondo trimestre dello 0,8%, è tornata così ai livelli pre-crisi. In Germania invece l'indice della fiducia, che misura la fiducia delle imprese tedesche, l'IFO, è calato a 108 punti, ma la propensione al consumo, l'indice tedesco si chiama JFK, è ai massimi dal 2006, è ai massimi sia sulle prospettive di acquisto, si chiamano inclinazioni all'acquisto dei tedeschi, sia sulle aspettative che hanno i tedeschi di aumenti salariali. Volete sapere al 349-238-6666 dello spread? È a 155 punti, quindi più che buono. Il nostro BTP a 10 anni rende il 2,72%. E visto che parlavamo delle attese dei tedeschi sia come consumi che come salari, beh, sono un po' diverse dalle nostre, mettiamolo così. Perché? Perché l'Istat oggi fa sapere che la crescita delle retribuzioni a giugno è stata dell'1,2%, quindi a livello da record di aprile, record negativo, nel senso che è la crescita dei salari più bassa da oltre 30 anni, dal 1982. Voi direte ogni volta: perché, che è successo nell'82? L'Italia ha vinto i mondiali, ma che è successo nell'82? È successo che sono iniziate lì le serie storiche, quindi non sappiamo se la crescita sia la più bassa dal 72, dal 62, dal 52. Sappiamo che da quando misuriamo l'andamento delle retribuzioni salariali mese per mese, e quindi dal 1982, non erano mai cresciute rispetto a un anno prima così poco. E poi l'allarme di Confindustria per quello che riguarda il sud: bruciati nel nostro mezzogiorno 600.000 posti di lavoro con la crisi, 2 giovani su 3 sono disoccupati. Ha colpito il sud, dice la Confindustria, con effetti durissimi, servono interventi robusti per amplificare i timidi segnali positivi. Il PIL del nostro mezzogiorno è in calo di 47 miliardi, ci sono 32.000 imprese in meno e 600.000 posti di lavoro persi al sud, 114.000 persone in cassa integrazione, quasi 2 giovani del nostro mezzogiorno su 3 sono disoccupati. Questo è quello che è capitato dal 2007 ad oggi. Se questa non è la foto di una guerra condotta con altri mezzi, ditemi voi cosa lo è. Tra l'altro nel 2013 si è raggiunto proprio il punto più basso per quello che riguarda l'andamento dell'economia nel nostro mezzogiorno, lo ricordava appunto la Confindustria nel cosiddetto check-up mezzogiorno. E il saldo tra imprese, allora, hanno chiuso 32.000 imprese, la differenza tra quelle che hanno chiuso e quelle che hanno aperto è negativa per oltre 14.000 unità. E a deprimere il nostro mezzogiorno è anche e soprattutto il dato sugli investimenti pubblici e privati. Dal 2007 ad oggi il calo è stato di 28 miliardi, vuol dire 2 punti di PIL. Che però è un calo del 47% dell'industria nel senso stretto, del 34% quanto a investimenti in agricoltura e nella pesca. L'unica variabile che va bene anche al sud è l'export, nel senso che pur con tutte queste difficoltà le imprese che ce l'hanno fatta, che sono riuscite a sopravvivere nel nostro mezzogiorno, hanno aumentato la quota di export del 2,5% rispetto a quanto non fosse la quota nel 2007. Allora, una notizia meno buona è una buona. Intanto i danni, secondo la Coldiretti, di questa estate pazza, ora non si può dire in questo caso piove, del governo ladro, ma chiaramente ci sono dei danni che riguardano sia il turismo ma anche riguardano il maltempo, un eccesso di produzione di alcuni ortaggi e verdura e frutta che vengono meno consumati, anche, lo spiega la stessa Coldiretti, per via di temperature assolutamente sotto la norma. E il danno complessivo è stimato in 1 miliardo di euro. La buona notizia invece è il piano Garanzia Giovani, quello lanciato dal governo, partito il 1° di maggio. Gli iscritti sono 138.000 per 8.700 posti di lavoro offerto. 21.000 ragazzi sono già stati convocati per un incontro, 9.100 hanno già ricevuto il primo colloquio di orientamento. E comunque si arriva, quindi si avvicina alla soglia dei 10.000 colloqui di orientamento per 8.700 posti. Possono sembrare pochi, ci mancherebbe, lo sono, viste le cifre che raccontiamo sulla disoccupazione, ma faccio notare che è da maggio, dal 1° di maggio, che è partita l'iniziativa. Ora, 8.700 posti in 2 mesi, vediamo come, quale sarà poi la progressione, ma non sono un elemento da buttare via. Ma ancora, per quello che riguarda le buone notizie di oggi, visto che raccontiamo sempre le spese della nostra pubblica amministrazione, ieri mi sono molto arrabbiato con i dipendenti della Camera dei Deputati che hanno protestato, fatto i cori perché si sono permessi, perché è stato deciso di avere 240.000 euro di tetto massimo alle retribuzioni. Io ho suggerito, visto le proteste, che giustamente prendano atto della situazione, si licenzino, vadano a cercare un lavoro fuori, rendiamo questi contratti a 5 anni, non capisco perché devono entrare con soglie e salari così alti, 35.000 euro minimo lordo come primo ingresso, e arrivare a guadagnare quelle cifre. Ricordavamo anche cosa guadagna il segretario generale della Camera, tutto legale, ma insomma tra i 500 e i 600.000 euro l'anno è troppa roba, e vale anche per il segretario generale del Senato, no? Per quella che è la tua responsabilità con la crisi che sta attraversando il paese. Poi quando li vedi anche fare i cori, fischiare, protestare, vabbè, allora veramente prendete atto che non è un bel posto di lavoro, licenziatevi e andate a cercare un lavoro fuori. La buona notizia però è che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato un decreto per ridurre ulteriormente i costi del Quirinale. Se non ricordo male, il Quirinale costa ancora il doppio rispetto a Buckingham Palace. Però insomma, 4 milioni in meno all'anno per i prossimi 3 anni, sono 12 milioni euro. Tra l'altro, devo dire che il Premier Matteo Renzi, intercettando a mio avviso anche l'idem sentire, ha mandato un Twitter dicendo: ma dove vive chi contesta la norma sul tetto di 240.000 euro, riferendosi ai dipendenti delle Camere, sia Senato che Camera dei Deputati? Intanto il taglio dei diritti camerali, cioè agli importi dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio, viene diluito in 3 anni, meno 35% l'anno prossimo, meno 40% nel 2016, meno 50% nel 2017. Il testo originario del disegno di legge sulla pubblica amministrazione prevedeva un dimezzamento secco da subito. CGIL, UIL e CISL dicono: attenzione, è una nostra vittoria, ora discutiamo del rilancio, ci sono a rischio 10.000 lavoratori. Una cosa la volevo dire però ai sindacati, dopo torneremo anche sul tema della protesta dei dipendenti della Camera, ma siccome ho visto dichiarazioni di vari esponenti sindacali dei dipendenti della Camera, ma i sindacati, nella loro massima espressione, non hanno nulla da dire su questo tipo di proteste, cioè ritengono che sia corretto che vi siano proteste di chi è già un privilegiato assoluto perché si pone un tetto di 240.000 euro alla massima paga di un dipendente della Camera dei Deputati o del Senato. No, vorrei sapere se ritengono corretta la protesta sindacale dei loro associati, oppure, visto che tante dichiarazioni fanno, CGL, CISL e UIL vogliono anche fare una nota per contestare, criticare una posizione che obiettivamente a noi sembra insostenibile. Noto un silenzio, ma evidentemente sono più occupati sulla vicenda all'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. 2 notizie ancora. Visto che parlavamo di Alitalia, oggi c'è il bilancio anche di Air France KLM, che ha chiuso pure lei con un bel rosso nei primi 6 mesi, 615 milioni di euro. Ecco uno dei motivi per cui non parteciperà sicuramente all'operazione all'Italia. Invece il premier Matteo Renzi, nell'incontrare Sergio Marchionne, quindi numero uno della Fiat, e John Elkann, presidente della Fiat, per la presentazione della nuova Jeep Renegade, ha annunciato che il 26 settembre sarà a Detroit per visitare gli stabilimenti Fiat Chrysler, e ha detto che è una grande gioia che la Jeep, per la prima volta un marchio americano, venga prodotto in Italia. Siamo molto orgogliosi, ha aggiunto invece John Elkann, di essere qui, di far vedere quello che stiamo facendo. L'FCA, quindi Fiat Chrysler Automobiles, sarà sempre più forte in Italia. 42 consiglieri regionali sono invece stati indagati dalla procura di Ancona per peculato in relazione alle spese sostenute dai singoli gruppi consiliari. Tra gli iscritti anche il presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, e il segretario regionale del PD, Francesco Comi, oltre alcuni addetti alle segreterie. Il governatore Spacca poi ha commentato dicendo: le indagini preliminari sono ancora in corso e sono una richiesta di proroga di indagini. L'unica novità intercorsa è appunto la richiesta di proroga di 6 mesi del termine delle indagini. Allora, prima di arrivare alla borsa vera e propria, quella diciamo che ha appena chiuso, -1,06%, vorrei aprire una parentesi, come anticipavo, sul sondaggio mensile che Radio Core fa con tutti gli associati di Assium Forex, in sostanza con tutti gli operatori di borsa. È particolarmente importante, non sempre lo raccontiamo, ma questa volta c'è più di altre notizia, perché rispetto al mese precedente le risposte sono notevolmente cambiate. Allora, come sempre il sondaggio di 300 operatori finanziari operato da Radio Core sulle 24 ore, ricorderete forse che la percentuale a giugno di chi riteneva che la borsa sarebbe salita era al 66%, al 58% a maggio. Fernando Mancini di Radio Core sulle 24 ore, che ha coordinato l'intero sondaggio, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. La risposta questo mese, quindi luglio. La percentuale degli ottimisti per i prossimi mesi per Piazza Affari è scesa al 46%, ovvero ai minimi da quando abbiamo iniziato questa ricerca, e cioè aprile. Quindi dal 58% di maggio al 46%, al 66% di giugno, al 46% di aprile. E aumenta la parte di chi prevede stabilità o aumenta la parte di chi prevede un calo invece? Allora, qui conferma la cautela degli operatori con queste due statistiche, cioè la quota che la vede stabile è aumentata dal 25 al 39% e praticamente raddoppiata quella che la vede in calo, e dall'8 al 14%. Dall'8 al 14% la percentuale che la vede in calo. Ecco, sui motivi... perché voi avete raggiunto anche il presidente di Assium Forex Attanà, sui motivi, ognuno avrà i suoi motivi, però se c'è un comune denominatore di una previsione così o decisamente più negativa sulla borsa, prego. Il quadro generale resta positivo, perché la borsa mantiene comunque un 10% di progresso da inizio anno, nonostante lo storno che c'è stato al picco di giugno, che è stato un -7% guidato dalle banche, guidato da fattori singoli. Quello che c'è di generale è che l'estate porta a un realizzo dei guadagni fatti durante il corso degli ultimi mesi. Questo è un discorso generale. L'altro discorso è che comunque in termini europei i mercati hanno, diciamo, sono stati al palo in questo periodo. Sì, e tra l'altro anche sull'euro, visto che gli operatori che avete intervistati puntano non a qualcosa di epocale, ma tendenzialmente a un ribasso dell'euro. Sì, in questo va avanti da alcuni mesi che vedo una guida a ribasso, una strada a ribasso per l'euro, perché la Fed e la BCE hanno intrapreso strade diverse. La BCE allenta i tassi, li abbassa per dare stimolo a una crescita fragile, mentre la Fed già ha preannunciato un orientamento opposto, e cioè una restrizione della politica monetaria. E questo comportamento divergente dovrebbe favorire una svalutazione molto richiesta in Europa per quanto riguarda la quotazione dell'euro. Quindi il consenso è abbastanza forte su questo, che l'euro andrà a ridursi, anche se non in maniera, diciamo, drammatica o così significativa. Allora, al momento sì, resta abbastanza forte, perché c'è la convinzione che alla fine questo orientamento al ribasso venga fuori, ma quello che l'ha impedito adesso sono fattori, diciamo, estemporanei, come le tensioni geopolitiche, che hanno impedito, diciamo, al tradursi sul mercato di queste aspettative, cioè le tensioni in Medio Oriente e soprattutto l'acuirsi della crisi Ucraina-Russia. Ultima nota, lo spread, perché anche qui le attese sono importanti. C'è un consenso su come si muoverà il nostro spread, e quindi il rendimento dei titoli di Stato? Prevale l'ottimismo, sì, prevale l'ottimismo, come d'altronde negli ultimi mesi, come abbiamo visto la dinamica restringersi sensibilmente dai valori che avevamo visto lo scorso anno. E gli ottimisti si quantificano un 41%, adesso guardo bene, che lo prevede in miglioramento rispetto ai livelli attuali, cioè il 36% lo indica tra la fascia 125-150 punti base, e i più ottimisti, cioè nella fascia 100-125 punti base, sono al 12%, mentre in termini numerici il 42% lo indicano sui livelli attuali, che cioè il 42% stabile e 51% in miglioramento. Esatto. Quindi, insomma, lì mi sembra che, insomma, sommando uno e l'altro, siamo al 93%. Che ritiene che lo spread non sarà un problema. Poi vedremo cosa capiterà. Grazie a Ferdinando Mancini di Radio Cori Sole 24 ore, e staremo anche a verificare la corrispondenza tra attese e poi andamento di borsa. Molti di voi chiedono l'astrologa. Sì, inviteremo l'astrologa a inizio settembre. Va bene così, anche perché questa è l'ultima puntata di Focus, che dura fino alle 18:30. Da lunedì prossimo avremo per il sesto estivo. Focus terminerà alle 18. Guardi, onestamente non ho capito, di tutti i messaggi che ho ricevuto in questi anni, insulti, ma perché uno mi chiede se io la barba la mattina me la faccio prima di andare al lavoro? Mi sfugge. Invece sui 240.000 euro stanno scrivendo moltissimi dipendenti e liberi professionisti, artigiani. Mi ha scritto anche un primario dicendo: io al massimo, dopo gli studi, l'aggiornamento, la fatica e il lavoro, arrivo a 100.000, dov'è che l'ho perso, porca miseria. 100.000 euro in un anno lordi. Un artigiano che lavora 11 ore al giorno, compreso sabato e domenica, dice: non posso più sentire questa gente che protesta, vi prego non parlatene più. No, l'unica cosa su cui non sono d'accordo, continueremo a parlarne, perché la vergogna, se non ce l'hanno loro come sentimento di pudicizia, cerchiamo di fargliela venire noi, no? Non so se ci riusciremo, ma almeno così ci prego. Magari ognuno di voi a Roma conosce qualcuno che lavora alla Camera dei Deputati e al Senato, gli può chiedere: quanto guadagni, quanto è il tuo netto? I 3.000 euro del barbiere, 3.500 del barbiere, vogliamo parlare netti più? Guardate che sui 240.000 euro poi vanno calcolati tutti i contributi previdenziali, quindi 240.000 è il salario lordo, poi si aggiungono decine di migliaia di euro di contributi previdenziali, quindi viaggi tranquillamente verso i 270-280 e hanno il coraggio di protestare. Sette e 40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa, poi BSkyB e poi Alitalia. Allora, vi prego, è venerdì, non roviniamoci il weekend. Comunque confermo a tutti quelli che mi stanno scrivendo che un barbiere entra sostanzialmente con 30.000 euro lordi l'anno, cui si aggiungono contributi previdenziali per 5.300 euro, il barbiere della Camera. Ma perché deve avere il barbiere della Camera dei Deputati? Ma basta, no? Basta, uno va fuori, va dal barbiere e va a tagliarsi i capelli. Cioè, beh, sembra veramente il Re Sole sta roba qua. Comunque, 30.000 euro l'anno. Poi, dopo 10 anni di lavoro, il barbiere, l'elettricista, il centralinista, l'autista arriva a 50.000 euro l'anno. A fine carriera, un barbiere, un centralinista con 40 anni di servizio guadagna 136.000 euro. Ok? Più altri 24.000 euro di contributi previdenziali, cioè più di un primario, più di molti dirigenti, più di tanta gente che fa lavori, non che non sia utile barbiere, ma insomma, con maggiori responsabilità. I ragionieri consulenti, 39.000 euro l'anno l'ingresso, i primi, 64.000 gli altri, dopo 10 anni, più che raddoppiati. A fine carriera, 238.000 i ragionieri, 360.000 i consulenti. Dai, dai, non roviniamoci anche questo venerdì. Tanto vuol dire, più che continuare a raccontare, ma non solo questi costi, di cui faccio presente che il 50% del miliardo di euro che ci costa la Camera dei Deputati vanno a pagare le spese dei dipendenti, perché altri 227 milioni pagano i pensionati, 310 i 1500 lavoratori di Montecitorio. Ma fate i contratti a 5 anni, fate i contatti, barbieri se ne trovano in giro, anche elettricisti, fate lavorare i giovani, fate lo scivolo. Ma perché non ci sono gli esodati lì? Non esistono i prepensionamenti lì? Non lo so. Ma non è solo per il costo, fermo restando che 1 miliardo di euro l'anno non è poca cosa, eh? 1 miliardo di euro l'anno per far funzionare la Camera dei Deputati non è poca cosa. Ma è anche come messaggio per il paese, e quindi ha ragione Renzi, ha ragione anche il presidente della Camera Boldrini a dire che è inaccettabile quello che è successo ieri. Io li sospenderei, ma voglio dire, ma in un altro posto di lavoro, contestazioni di questo tipo di fronte ai manager non organizzate, non all'interno del diritto sindacale, portano a un richiamo dell'ufficio del personale. Ma c'è un ufficio del personale a Montecitorio e a Palazzo Madama? Poi sarebbe interessante quanto guadagna il capo del personale dell'ufficio. Va bene, la borsa meno 0,90% Milano nel finale, oggi deboli un po' tutti i settori, in peggio ha fatto Parigi meno 1,80, Francoforte meno 1,5, Londra meno 0,50, l'America meno 0,80%. E allora Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Mediaset, visto che poi parliamo di BSkyB, meno 3% quasi. È una correzione, io il titolo aveva fatto più 7% sfruttando l'effetto Spagna, cioè i conti della controllata spagnola che aveva fatto più 8% a Madrid, e non solo, anche il piano di acquisto di azioni proprie della controllata spagnola annunciato per 500 milioni, quindi ieri sull'effetto Spagna quella reazione, e oggi una naturale correzione accompagnata da un mercato tendenzialmente sottotono, complice anche l'indice IFO tedesco deludente e anche la correzione di Wall Street che stava ai massimi dell'anno. Sì, insomma, più di una scusa c'era per vendere. Allora, andiamo avanti, le banche, Pop Emilia Romagna meno 3%, Banco Popolare meno 2%, Intesa meno 1,70%, Unicredit meno 1,40%, c'è qualcosa da aggiungere o appunto cali generalizzati? Beh, ieri le banche avevano vissuto una giornata estremamente brillante con rialzi particolarmente sostenuti tra il 4 e il 6-7%, per cui è una correzione che sulle motivazioni che dicevamo prima e anche sul, diciamo così, la reazione di Wall Street e sull'effetto che ha avuto sui mercati continentali ci stava. Oggi peraltro però il settore bancario nel resto d'Europa si è comportato piuttosto bene, invece sull'Italia, sugli effetti e realizzi, è stato negativo. Ancora Atlantia, società autostrade, qui c'entra anche l'Italia. Beh, sicuramente l'incertezza che sta crescendo sull'operazione all'Italia. Scusami, non ho dato la variazione, meno 2,70, scusa. Sì, l'incertezza sull'operazione all'Italia Etihad, visto che potremmo essere alle battute finali, sta penalizzando il titolo. Questa mattina l'indiscrezione poi smentita dell'ultimatum di Etihad chiaramente ha fatto un po' tremare anche un titolo come quello di Atlantia, che essendo la società di gestione degli aeroporti romani è, diciamo, la prima beneficiaria di un accordo di rilancio del vettore italiano. Quindi nel dubbio, anche se poi oggi c'è stata l'approvazione dell'aumento di capitale di Alitalia, però nel dubbio gli operatori viaggi hanno preferito alleggerire su Atlantia. Ancora per quello che riguarda i titoli, no, vedo che qualcuno forse toccato sul vivo si lamenta che parliamo sempre degli stipendi della pubblica dell'amministrazione, delle spese delle regioni, insomma basta, dice sempre, no, continueremo a dirle queste cose, si rassegni, voglio dire, la radio è bella perché è libera, no? Con un click lei può ascoltare qualcos'altro se non le interessa il tema, se lo ritiene noioso. A noi non sembra così noioso. Comunque, detto ciò, andiamo avanti con gli altri titoli. Oggi, già anticipato in apertura del programma, Ferragamo meno 2,30%, TOZ meno 1,10%, di nuovo un po' di sofferenza sul lusso. Ma Luxottica fa più 1,60%. Sì, è una sofferenza sul lusso complessiva indotta da Louis Vuitton, perché il colosso francese oggi ha perso 6,5% a Parigi. I risultati sono stati deludenti, il mercato ha subito penalizzato il gruppo francese e si è avuto un effetto anche sugli altri listini. Ferragamo è stata la più penalizzata con meno 2,3%, in controtendenza invece Luxottica, che però poteva fare affidamento sui suoi conti pubblicati ieri, sui conti trimestrali, sulle buone indicazioni sulla seconda parte dell'anno e anche sull'accordo di licenza fino al 2018 con Chanel, e questi fattori sono stati quelli che hanno permesso a Luxottica di essere la migliore del FTSE MIB. A 7:50 minuti. Allora, Andrea Fontana, dicevamo altri titoli G-Tech. Sì, per quanto riguarda G-Tech, oggi è una giornata negativa di correzione, il mercato sta scontando una preoccupazione per quanto riguarda l'operazione colossale annunciata una decina di giorni fa, cioè la fusione con il gruppo americano IGT che farebbe nascere un gruppo del settore giochi, video lotteries e casinò leader mondiale in questo settore. Il mercato teme le indiscrezioni che dicono che alcuni studi legali starebbero valutando se l'offerta fatta da G-Tech a IGT sia accoglibile da parte degli azionisti di minoranza o non sia piuttosto negativa per loro, e quindi teme che ci possano essere delle azioni legali nei confronti di questa operazione, e questo innesca un elemento di incertezza che sta penalizzando il titolo. Ancora migliori e peggiori in assoluto oggi, Bialetti più 15,30, c'è qualche novità? Mi è sfuggita evidentemente perché non ho visto agenzie. No, non ci sono novità di mercato, oggi gli operatori sono interrogati molto sul fatto che da un paio di giorni Bialetti si sta muovendo anche con volumi in ripresa, soprattutto oggi, ieri si era mossa bene al rialzo ma senza volumi, ma non ci sono ancora novità, peraltro anche i conti sono lontani perché sono solo la fine di agosto, per cui bisognerà capire nei prossimi giorni come mai questo movimento del titolo. Sì, mi fa impazzire che gli operatori si interroghino, cioè dovrebbero darci una risposta più che interrogarsi. Comunque, Renault de Medici più 5,90, Monriff più 4,80, Carraro più 4,60, fronte opposto Seat pagine gialle meno 6,70, Louis Vuitton Moanesi, appunto citavi il tema del lusso, meno 5,70, Eukedos meno 5,40, Grandi Viaggi meno 5,20%. Grazie ad Andrea Fontana e buon fine settimana ai colleghi dell'agenzia Radio Core, Il Sole 24 Ore. milioni di clienti, 14 milioni di euro di ricavi e la potenzialità per raggiungere 97 milioni di abitazioni. Questo è quello a cui potrebbe portare l'accordo annunciato oggi da BSkyB, quindi Sky britannica, che però controllava anche Sky Italia e Sky Deutschland. Che cosa ha fatto? Ha raggiunto un accordo con la 21st Century Fox, che è sempre di Rupert Murdoch, quindi è un accordo interno. BSkyB comunque pagherà 3 miliardi di euro per avere il 100% di Sky Italia. 20th Century Fox aveva il 100% di Sky Italia e il 57% di Sky Deutschland. Allora pagherà, dicevo, 3 miliardi per avere il 100% di Sky Italia e altri 3 miliardi e 7 per avere il 57% di Sky Deutschland. Poi, quindi sono 6 miliardi e 700 milioni di euro in totale, che potrebbero diventare 8 miliardi e 850 milioni se i piccoli azionisti, gli azionisti di minoranza di Sky Deutschland, dovessero conferire, dare le loro azioni, vista l'offerta, a BSkyB. Allora, due domande. Perché metti assieme sotto un unico cappello anche Sky Italia e Sky Deutschland? E poi questi soldi, visto che è una partita di giro interna a Rupert Murdoch, a che cosa ti serviranno? Perché qualcuno ricorda infatti l'operazione tentata su Fox Time. A questo punto, tra l'altro, potrebbero essere aggiunti non meno di 8 miliardi di euro, ossia 10 miliardi di dollari, agli 80 miliardi di dollari che Fox aveva messo sul tappeto nel tentativo di convincere la Time Warner alla fusione, a un matrimonio che sarebbe obiettivamente storico. Chiedo spiegazioni a chi segue da sempre, insomma, la Bibbia mondiale, poi c'è anche la versione italiana di questo mondo, si chiama Wired. Il direttore in Italia è Massimo Russo. Buonasera, Massimo. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, il resto della risposta dopo il GR24. La prima domanda riguarda l'operazione in sé. Perché, visto che era tutto di Murdoch, va a far comprare a BSkyB il 100% di Sky Italia e il 57% che non aveva di Sky Deutschland? Perché si costruisce un'enorme piattaforma di distribuzione, che è la più grande pay TV europea, e sulla quale poi si possono fare sinergie. Si aspettano circa 250 milioni di euro di risparmi integrando queste tre piattaforme da una parte, e dall'altra si va a fare sviluppo e innovazione, perché poi il broadband, cioè la banda larga, la distribuzione di contenuti attraverso internet è già una realtà in Gran Bretagna, non lo è ancora moltissimo in Italia, ma insomma è lì che si sta andando. Quindi tu dici che al di là del controllo societario che comunque faceva capo a Murdoch, in questo modo tu hai unito sotto un unico marchio tutta e vai a concorrere con una super pay TV europea? Okay. Assolutamente sì. C'è da dire che alla fine Murdoch avrà quota azionaria di minoranza di questa nuova BSkyB, perché lui controlla il 39% di BSkyB, e a quel punto bisognerà capire o tutto questo porterà alla costruzione di una grande compagnia europea che poi operando nel campo della distribuzione lui decide di tenersi. Oppure può decidere di venderla, in quel caso già si dice che uno dei possibili acquirenti potrebbe essere Vodafone. E dall'altra parte invece avrebbe l'ossigeno per concentrarsi su come dicevi prima, su Time Warner, quindi sul contenuto, no? Perché in futuro in qualche modo stiamo evidenziando grandi agglomerati che si occupano di distribuzione da una parte o contenuti dall'altra. Quindi tu, ma ecco, in quale senso, cioè che tu hai dentro sia la piattaforma che i contenuti, o che si va verso una divisione tra chi ha la piattaforma e quindi la possibilità di veicolare e chi ha i contenuti? Questo ce lo dirà solo il tempo. Da una parte vediamo che ci sono piattaforme nate solo per la distribuzione come Netflix che stanno cominciando a produrre, no? Contenuti. Produrre contenuti, serie che tra l'altro cambiano con un cambiamento della modalità di fruizione, della modalità di consumo da parte degli spettatori. Diciamo, ci sono dei grandi movimenti tettonici nel campo della fruizione della televisione, che non è più televisione lineare ma che è molto spesso televisione on demand, no? E tutto questo alla fine porta a delle concentrazioni, a delle agglomerazioni sempre più grandi. Quello che bisogna capire è credo che in questo momento lo sappia solo Murdoch, se alla fine di questa operazione, che non è detto comunque che riesca, perché è complesso fondere una società tedesca, una società inglese e una società italiana, quel che ne nascerà lui abbia intenzione di tenerselo per avere la distribuzione da una parte in Europa e la produzione dei contenuti dall'altra negli Stati Uniti, oppure voglia concentrarsi e quindi fare cassa una volta creata questa nuova grande compagnia di distribuzione. A che mi viene da pensare quanto forti siano, Massimo Russo, i rischi di un futuro, non dico monopolio, ma quasi oligopolio, perché insomma qui stiamo ragionando di agglomerazione. Se dovesse andare in porto l'operazione Fox Time Warner, avremmo veramente un colosso mondiale. Minuti, riprende la seconda parte di Focus Economia per l'ultima puntata col palinsesto normale, diciamo. Poi dal lunedì prossimo termineremo alle 18 fino alla fine di agosto, ma sempre in diretta. Allora, ragionavamo con il direttore di Wired, Massimo Russo, sull'operazione B Sky B, e quindi il 100% di Sky Italia e anche di Sky Deutschland, l'operazione che vale in questo momento praticamente 6 miliardi e 700 milioni di euro, ma potrebbe arrivare a 8 miliardi e 850 milioni di euro, pur essendo un'operazione interna a società controllate dal magnate australiano Rupert Murdoch. Massimo, prima del GR24 ti avevo chiesto, allora abbiamo capito che si crea una piattaforma europea colossale, no? Una nuova super pay TV europea, abbiamo capito anche che questi soldi probabilmente serviranno a Murdoch per rilanciare l'offerta per il matrimonio con Time Warner. Offrì 80 miliardi di dollari ma fu rifiutata, adesso ne avrebbe 10 miliardi, quasi 11 miliardi in più. Ti chiedevo del rischio, non dico monopolio ma oligopolio, e anche come può questo influire le strategie di altri gruppi concorrenti, penso a Mediaset, Telecom, temi di cui abbiamo ragionato in queste settimane. Ma in realtà le cose che si vedono sono soprattutto due quando capitano queste cose, che da una parte c'è una scala globale sulla quale ci sono dei concorrenti che oramai hanno a livello globale, come dicevi tu, questa nuova piattaforma a 20 milioni di famiglie ora potrebbe salire fino a 100 milioni di famiglie, si scontra con piattaforme altrettanto grandi, perché Liberty Global, che al suo interno Virgin, non è da meno, British Telecom, che è molto attiva nel broadband e quindi nella banda larga, e in questo momento è la più forte concorrente di BSkyB in Gran Bretagna nella distribuzione di contenuti. Va ricordato che BSkyB in Gran Bretagna cresce soprattutto in questo momento attraverso un oggettino che si chiama Now TV Box, che è una sorta di scatolotto che permette di ricevere via internet direttamente i contenuti di Sky e non richiede un abbonamento come in Italia. Ecco, quindi internet è il campo di battaglia. Quindi da una parte abbiamo queste grandi piattaforme, Netflix, Google, Apple TV e quel che seguirà, e dall'altra però la cosa che colpisce abbastanza è il fatto che in Italia invece le dimensioni sono molto più piccine e ci preoccupiamo per delle cose che, viste su una scala così grande, sembrano un po' ridicole. Penso a quel che è successo, che sta succedendo in questi giorni riguardo all'accorpamento di TG della Rai, oppure sì, alla vendita di Rai Way, oppure al duopolio media. Siamo a Rai Storia, nel senso che, vista così, appunto, tu hai ragione a ricordare che poi ognuno fa quello che vuole, figurati se io parlo di un concorrente, ma dico che l'accorpamento interno, la riduzione di costi, quando fuori hai queste operazioni che valgono mezza manovra finanziaria italiana, ecco, mi sembra che possa essere più attribuibile a Rai Storia. che a Rai Futuro, se vogliamo dirla tutta. Comunque, quelli sono fatti loro e ognuno si risolve i problemi, diciamo, a casa sua. Grazie intanto e buon fine settimana anche a te, al direttore di Wild Italia, Massimo Russo. Grazie a voi, ascoltatori. Allora, ultimo tema di questa puntata, ogni volta lo dico, spero, non è l'ultima volta, non sarà l'ultima volta che ne parleremo, all'Italia, forse ci siamo, il giorno della verità, molti quotidiani oggi titolavano, comunque l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio, non sono stati comunicati però i risultati, da quello che risulta però la perdita netta sarebbe intorno ai 569 milioni di euro, quindi 1,5 milioni di euro al giorno di perdita netta. C'è un ascoltatore che si lamenta che oggi è il venerdì un po' tranquillo, non è che possiamo litigare ogni venerdì con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, tranquillo però mica tanto. Allora, vediamo perché. Da un lato c'era il referendum dei sindacati, indetto dei sindacati, non si è raggiunto il quorum e quindi Alitalia fa sapere, e devo dire che interpreta a mio avviso correttamente la legge, che non essendo stato raggiunto il quorum, hanno votato 3.500 su 13.200 lavoratori, resta la validità degli accordi. Poi c'era l'altro fronte oltre al bilancio, ossia le indiscrezioni di stampa secondo cui il numero uno di Etihad, James Hogan, avrebbe fissato un ultimatum, avrebbe detto o chiudiamo con voi entro lunedì 28 o salta tutto. Smentito questo ultimatum sia dall'Italia che da Etihad. Nel giorno in cui anche Air France ha fatto sapere che non parteciperà all'aumento di capitale, e lo stesso numero uno di Air France KLM, Alexandre Juniac, ha detto non vedo soluzioni alternative ad Etihad, le condizioni ottenute da Etihad per investire nell'Italia sono comunque superiori a quelle che avevate offerto a noi, però Air France KLM non ha i soldi per l'aumento di capitale, anche perché ha chiuso il primo semestre con un rosso da 615 milioni di euro e un fatturato in calo. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Gregory Aleggi, che era con noi, ci eravamo dati appuntamento oggi, una settimana fa, docente di gestione delle compagnie aeree alla LUIS di Roma. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Allora, Gianni, una prima domanda: perché i conti non li ha diffusi? Si vede che non gli piacciono, forse. Capito, si Ma la trasparenza mi pare che non ha molto a che fare con questa vicenda in cui spesso ci sono stati dei Tu mi vuoi mettere in difficoltà con Alitalia, va bene, andiamo avanti. A dei momenti, a dei passaggi importanti. Alitalia non è una società quotata, allora ti dico, non ha l'obbligo di comunicare questi dati, però di solito le società, soprattutto quelle di una certa importanza, poi svolge anche un servizio di largo interesse pubblico, il trasporto passeggeri, quindi le informazioni sui conti sono anche un indicatore per capire comunque come sta una società, se uno può fidarsi, o se uno che compra un biglietto sa che tra qualche mese l'aereo volerà, lo porterà da qualche parte. Vabbè. Quindi ci vorrebbe più trasparenza. Però insomma, a noi risulta che il rosso si aggirerebbe sui 569 milioni, risulta anche a te? Sì, perché io ho il bilancio, l'ho potuto vedere, e sul Sole 24 Ore già da qualche settimana appunto questi numeri li abbiamo scritti, e 568,6 milioni la perdita del gruppo Alitalia nel 2013. Quello che ha causato questa perdita è che il patrimonio netto, cioè sarebbe il capitale, la somma tra il capitale sociale e tutti i risultati, le riserve accumulate negli anni, è negativo per 27 milioni, questo a fine 2013, quindi dopo che era stato fatto l'aumento di capitale di 300 milioni. Questo, tirando rapidamente le conclusioni, vorrebbe dire che a fine 2013 l'Alitalia come gruppo aveva bruciato tutto il capitale e quindi avrebbe dovuto già aver chiesto altri soldi ai soci oppure aver portato i libri, come si dice, in tribunale. Ma allora, la vicenda referendum, visto che c'è un ascoltatore che mi dice lei non sta spiegando correttamente, abbia un po' di pazienza, adesso ci arriviamo. Mi dispiace se lei oggi ha un po' meno stima di me, ma Il referendum, va spiegato bene, era sull'accordo, sul contratto, Gianni? Il referendum era sull'accordo che taglia le retribuzioni, esatto, sostanzialmente. I 31 milioni di euro. I 31 milioni di euro di risparmio, secondo la stima dell'Alitalia, in seguito al taglio delle retribuzioni nel secondo semestre o negli ultimi 5 mesi, non so, del 2013. Il referendum era su questo, era un referendum abrogativo, cioè la richiesta era un referendum abrogativo, quindi è vero che c'è molta confusione su questo. Comunque ha votato un numero di lavoratori, circa un quarto, poco, più di 3.000 su oltre 13.000 lavoratori. La maggioranza di quelli che hanno votato ha votato per l'accordo, perché ha votato soprattutto il personale di terra, che è quello che, avendo anche le retribuzioni un po' più basse nella media, è meno colpito. Poi ci sono creati dei contrasti tra assistenti di volo, piloti e terra, perché la tredicesima, per esempio, il sacrificio sulla tredicesima viene fatto fare, viene tolto solo ai naviganti, non al personale di terra. Comunque, essendo un referendum di tipo abrogativo, non ha raggiunto comunque il quorum che sarebbe la maggioranza dei dipendenti per, come votanti, e per cui non ha prodotto effetti. Poi diciamo, ognuno può leggere che la maggioranza di chi ha votato a favore di questi accordi e non contro. Sì, i 3.500 che hanno votato in maggioranza hanno votato appunto in questo modo. Dopo il traffico, però, vorrei capire con il professore Aleggi se a questo punto 28 o non 28, cioè tutti hanno smentito l'ultimatum, però adesso diciamola tutta, insomma, è chiaro che a sto punto, prima dell'estate, questo accordo va firmato. Io non ho ancora capito che cosa manchi completamente. Il bilancio è stato approvato, l'aumento di capitale è stato approvato. Le Poste non parteciperanno, obiettivamente Air France lo sapevamo già, ma ha confermato che non parteciperà. Mi sembra che a questo punto manchi solo la firma, però vorrei la vostra conferma. e 20 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Aleggi, ci siamo? Cioè, ormai tutti gli elementi che pure c'erano, il CDA, le Poste, l'assemblea degli azionisti, il ruolo dei sindacati, si firma? Guardi, lo spero, perché la sensazione a questo punto è che la partita sia più sul versante italiano che non su quello Etihad. Nel senso che le condizioni sembrano tutte quante affrontate e sostanzialmente risolte, rimangono partite interne italiane come quelle sindacali. Tanto per spiegare, avevamo accennato anche la settimana scorsa, nella puntata precedente della telenovela, questi problemi sindacali. Per dare un'idea di cosa c'è dietro, traduciamolo in numeri. Sì. Pensiamo che ad esempio il taglio delle retribuzioni grava per la maggior parte 25 milioni di euro su 5.500 naviganti e per meno di 5 milioni su 7.100 persone di terra. Quindi il risparmio complessivo è quello, diciamo, 31 milioni, che è quello che chiede Etihad. La distribuzione interna sembra essere più un problema diciamo di peso sindacale, di rapporti interni. Quando parlavamo prima del referendum, tanto per dare un'idea di, diciamo, come si può leggere quel dato, dei piloti ha votato il 3%, 49 persone in tutto, degli assistenti di volo il 6%, 200 persone, e di terra il 46%, quasi la metà. Quindi dietro c'è evidentemente un, come dire, tentativo di disegnare dei rapporti di forza, come dicevamo anche la settimana scorsa, e blindarli. Questo però fondamentalmente... Cioè, se ho ben capito, le dice che c'è uno... un peso molto forte di tutti gli operatori di terra, cioè quelli che non volano, che non sono né piloti né steward né né hostess, e anche come potere e peso nella rappresentanza sindacale, infatti sappiamo che, e questo si è in qualche modo ripercosso sul tipo di tagli, perché su 31 milioni la stragrande maggioranza di questi tagli ai costi del personale vengono scaricati sul personale che viaggia. L'80% del taglio su un terzo del personale. Io dico, e questo secondo lei perché sindacalmente pesa più il personale di terra del personale viaggiante? Io dico semplicemente che i sindacati fanno il loro mestiere, tutelano, certo, i loro iscritti. Ma questo credo che a James Hogan e a Etihad interessi veramente poco, interessa il totale. Per questo dico che la partita verso Etihad credo sia definita. Il problema è una partita italiana, anche perché, e qui giungiamo al secondo punto cruciale, Etihad non vuole pendenze. Tutta la battaglia, diciamo, per la garanzia contro eventuali sorprese che arrivassero dal passato, no? È perché loro vogliono concentrarsi sul futuro, per fortuna. Vogliono guardare avanti, non vogliono continuare ad aprire armadi e trovarci scheletri. In questo senso, già dire, si può leggere loro insistere per avere l'accordo di tutte le parti sindacali. Le nostre, in italiano questo viene tradotto con una sorta di regolamento di conti per blindare la situazione, visto che dopo non si riaprirà più. E quindi, come diceva lei, i rapporti di forza interni. Gianni Dragoni, ho ancora un paio di minuti. Sei d'accordo su questa analisi del professor Aleggi, che dice a Etihad interessano i 31 milioni, non come arrivano? Però poi, andando a vedere dove si operano questi tagli, oggettivamente chi ha maggior forza come rappresentanza sindacale, cioè il personale di terra, ha avuto tagli ben inferiori al personale viaggiante. Beh, è andata così, diciamo che la stessa l'Italia ha adottato un sistema piuttosto rudimentale, ha semplicemente fatto un accordo con i sindacati in base al numero degli iscritti, e per cui anche chi rappresenta una categoria ha potuto firmare un accordo che poi ne colpisce un'altra. È come se qualcuno ha detto che è come se il contratto dei medici l'avessero, diciamo, deciso il sindacato degli infermieri, che sono magari più numerosi nell'ospedale, ma questo non avviene. O come se nella scuola il contratto degli insegnanti, poi nel momento in cui c'è da fare un sacrificio, lo decidesse il personale magari amministrativo. Questo di solito non avviene. Qui, in una situazione estremamente confusa, di disastro, di collasso, di azienda che sta fallendo per la seconda volta, è passato questo tipo di impostazione, che però sta creando ancora delle divisioni, e infatti poi alla fine però a Etihad interessa il risultato finale, è vero, ma a Etihad interessa anche che ci sia una pace sindacale. È per questo che oggi all'Italia, anche se prendendo atto di come è andato il referendum, dice che il quorum non è stato raggiunto, ma gli accordi si devono intendere validi, però chiede che tutti i sindacati siano, diciamo, abbiano un atteggiamento collaborativo ai fini dell'accordo con Etihad. Questo vuol dire che se si mantiene questa conflittualità, Etihad non firmerebbe l'accordo, quindi c'è ancora una situazione da chiarire. L'altro punto, tu prima, Sebastiano, dicevi perché allora non si firma, perché non si va all'accordo finale, sì, perché l'Assemblea non lo ha approvato o non ha comunque preso atto, perché credo che si tratti solo di prenderne visione, quello che manca, e che pur essendo stato approvato l'aumento di capitale, e questo è un punto comunque, un passo avanti, non si sa ancora cosa faranno Poste, o meglio si sa che non vogliono mettere i soldi per coprire i buchi del passato, né garantire che non ci siano ulteriori oneri, come invece dovrebbero fare le banche e gli altri azionisti, e quindi finché questo passaggio non viene chiarito, questo accordo finale non si può ancora firmare. I prossimi giorni verranno impiegati per provare a definire questa partita e magari fare un giro di tavolo con i sindacati per vedere se aggiustare un po' questo pasticcio dell'accordo, diciamo, fatto in maniera un po' sproporzionata rispetto anche al peso e al ruolo, col massimo rispetto per chi lavora come operatore di terra per l'Italia, ma insomma, non possiamo dimenticarci che il ruolo dei piloti e degli assistenti di volo sugli aerei che poi volano, per cui insomma mi piace molto l'esempio, insomma, col massimo rispetto tra un infermiere e un medico, ma non si è mai visto un contratto dei medici firmato dalla maggioranza degli infermieri. Grazie anche a Gianni Dragoni, e a risentirci. almeno per la firma. Speriamo di fare una bella puntata in cui diciamo oggi la firma dell'accordo finale tra Etihad e Alitalia, così poi Alitalia se la gestiranno gli Emirati Arabi, nel caso specifico Abu Dhabi. Grazie anche al professor Gregory Aleggi. Allora, come sempre, l'auguro di buon fine settimana. Questa volta però non lo faccio ai dipendenti della Camera dei Deputati e del Senato, che si sono permessi ieri di protestare per il tetto a 240.000 euro. Non lo faccio perché l'abbiamo trovata vergognosa come protesta, anche perché il tetto massimo ai dirigenti ci metteranno 3 anni ad applicarlo, sono tenuti fuori tutti i sistemi retributivi, ci sono stipendi allucinanti rispetto a quello che è il paese reale. Mi ha scritto un direttore di filiale di banca, diciamo, insomma, io esco dopo una settimana stressante, ho 50 anni, faccio il direttore di filiale da 10, guadagno 2.400 euro netti al mese, ho lo stipendio bloccato da 2 anni e le aspettative decrescenti. Dovevo fare il barbiere alla Camera, sì, forse sì, visto che avrebbe preso 3.500 euro. A tutti gli altri invece buon fine settimana, in bocca al lupo, soprattutto chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.